chiamo sempre, ecco Gaffe, ti chiamo sempre il soprannome, mi devi scusare. Va benissimo. Questa collaborazione con l'Istituto di Psicosintesi, che ha una storia molto più lunga e più importante della nostra biblioteca, che è più recente, è nata alcuni mesi fa perché una giornata, ho ricevuto la piacevole visita di Annalisa, di Claudia, di Maria che mi hanno proposto appunto di unire le forze e di promuovere appunto le attività, ma attraverso soprattutto l'incontro con autori e autrici, l'attività anche dell'istituto. Quindi siamo molto contenti perché per noi è un'occasione di ampliare il nostro spettro d'azione, arricchire la nostra bibliografia con nuovi temi, perché il bibliotecario ha una conoscenza ma magari ha dei campi dove si trova più a proprio agio e non necessariamente conosce tutto lo scibile, e invece questi incontri, questi confronti sono utili anche per noi per arricchire proprio la raccolta che abbiamo in biblioteca. A questo punto infatti la sede della biblioteca si è trasferita appunto da un anno, siamo a piano terra e come da tradizione, da vent'anni a questa parte, organizziamo il più possibile degli incontri, delle attività per far in modo che le persone abbiano voglia, piacere, interesse di leggere, di incontrarsi, di scambiarsi delle opinioni, di avere sempre una nuova prospettiva di crescita. E quindi sono contentissima, vi ringrazio ancora per questa occasione, ringrazio tutti voi di essere qui con noi. Ne approfitto sempre di queste occasioni per ricordare anche i nostri appuntamenti prossimi. Lunedì alle ore 18 avremo il premio Campiello 2017, che è appunto Marco Balzano, che presenterà il suo libro ambientato in attuale, dice Resto qui, in particolare su Re Nostra. Poi martedì 23 alle ore 17 però giù in biblioteca avremo la presentazione di un libro attraverso le regioni del Trentino, di Tirolese del 600, con Giuseppe Ossi, Bruna Maria D'Amago Veneri e Paola Maria Filippi. E infine il 29, che è lunedì prossimo, cioè per una settimana, avremo la presentazione di un libro su Andrea Mascagni, di cui ricorre. Diciamo un anno fa era centenario, ma noi lo festeggiamo e lo ricordiamo con questo libro il 29 ottobre. Non dico niente, vi invito così eventualmente a iscrivervi alla biblioteca, che è tutto gratuito, ma vi permette di rimanere in contatto con le nostre attività, le nostre iniziative. Lascio la parola ai nostri ospiti e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie. Grazie. Funziona? Così? Okay. Sì, sì. Buonasera a tutti. Dunque, per prima cosa vi presento Stefano Pelli, che arriva direttamente da Grosseto. È uno psicologo, psicoterapeuta, nonché formatore dell'Istituto di Psicosintesi. È stato per parecchio tempo il direttore del centro di Grosseto, perché l'Istituto di Psicosintesi ha diversi centri in Italia e anche nel mondo. In Italia siamo una quindicina di centri. Il nostro Bruno Bolzano il prossimo anno compirà 35 anni. Caspita! Stefano Pelli però stasera si presenta in una veste completamente nuova anche per noi addetti al lavoro della psicosintesi. Come un autore ad esordio maturo con il suo primo romanzo. E quindi la prima domanda che ti pongo è quella più semplice: come mai ti è venuto in mente ciò? Beh, è una domanda direi legittima, mi fa piacere anche che me la fai, insomma, questa domanda, perché in realtà il fatto di scrivere è una cosa che, così come immagino molti altri, mi ha accompagnato da sempre, fino a quando ero proprio un bambino, potrei dire intorno ai 10-11 anni. Però ecco, è una cosa che ho sempre lasciato un po' nell'ambito così delle scritture un po' più saggistiche, degli articoli scientifici, sì, collaborando vabbè prima con altre pubblicazioni, poi con la rivista Psicosintesi, eccetera. E quindi ecco, il fatto di cimentarmi, di affrontare questa avventura di un romanzo, addirittura di un romanzo, e di un romanzo che in parte, diciamo in buona parte, anche autobiografico. Potrei dire in una parola che è stato un fatto per me di gratitudine. Diciamo che la molla iniziale che mi ha spinto a scrivere questo libro è stata proprio la gratitudine. La gratitudine per chi? La gratitudine, beh, potrei dire per l'adolescente che sono stato e per gli adolescenti che ho avuto intorno a me quando sono stato adolescente. Risalire il pendolo è un romanzo corale che dà voce a una coralità di personaggi che stanno intorno a un protagonista che è un alter ego, diciamo, quindi non coincide al 100% con l'autore, cioè con me, anche perché con l'autore potrebbero coincidere uno, nessuno e 100.000, cioè tutti i protagonisti di questo libro, che sono un buon gruppo, diciamo. E si svolge dall'inizio alla fine degli anni 70. Parlano i protagonisti, ragazzi e ragazze, giovani di quel decennio. E perché proprio quel decennio? Perché quel decennio e risalire il pendolo, qua c'è un movimento. Ecco, esatto, perché quello è stato il decennio di un grande movimento, potrei dire, prima di tutto. È stato un decennio che ha seguito il 68, in cui il 68 lo possiamo immaginare come una porta di accesso a quello che è accaduto nel decennio successivo. È stato un anno fondamentale, anche subito prima del 68, già del 66 potremmo dire in Italia, ma poi anche il 69 e soprattutto questo decennio degli anni 70. È stato un decennio, dicevo, di grande movimento, di grandi movimenti, non è stato più solo uno il movimento, movimenti che hanno attraversato la produzione, le fabbriche, le scuole, le università, il sociale, e che hanno portato, a me piace mettere lo sguardo della memoria soprattutto sull'aspetto di grande creatività, di grande autodeterminazione, anche rottura e ricostruzione del rapporto con quello che era accaduto prima in termini estremamente critici. È stato un decennio che purtroppo poi noi ci ricordiamo come gli anni di piombo. Infatti il sottotitolo Un'adolescenza negli anni di piombo nell'età dell'oro vuole proprio giustapporre questi due elementi e riportare più ovviamente l'attenzione sull'età dell'oro, non perché gli anni di piombo non ci siano in parte stati, ma perché classificare in questo modo totalizzante e liquidatorio un intero decennio e un'intera generazione è una cosa che a me proprio non andava giù, e quindi ho voluto osservare in un altro modo quegli anni, ma non perché io abbia voluto scrivere un romanzo storico, perché questo è un romanzo di testimonianza, ma appunto dando la voce ai protagonisti. In questo libro, oltre ai personaggi del romanzo, quindi con tutta la libertà che il romanzo permette, no? In termini di creatività, di immaginazione, ci sono dei documenti storici, cioè ci sono degli scritti dell'epoca. E ci sono anche delle trascrizioni e poi una cosa molto simpatica dal punto di vista editoriale, che io ho apprezzato, perché nel 68 avevo 5 anni e quindi non ho vissuto di prima persona le bellezze anche della ribellione, della riconflittualità, eccetera. Per sentito dire, dopo, negli anni 80, avevo già tutta un'altra storia, me la sono persa. E quindi ho trovato anche molto utile i gate, perché all'interno del romanzo c'è la storia, la tua storia in parte, la storia dei movimenti, la storia delle generazioni, degli adolescenti, e poi ci sono queste finestre che si aprono improvvisamente. Con dei geni storici o altro, molto utili tra l'altro. Queste rispondono a due esigenze: una è quella di non appesantire il racconto e il testo inserendo delle digressioni su aspetti storici, cioè quindi mi è piaciuto raccogliere in fondo l'appendice come archivio dei gate, quindi archivio dei passaggi, dei varchi, gate in questo senso, all'approfondimento, che hanno tra l'altro un passo narrativo che è più giornalistico, mi viene da dire. Dove sì, sono due modalità diverse. Quindi se uno vuole se li va a vedere man mano che va avanti nel testo, se uno vuole se li guarda dopo alla fine del capitolo, oppure non se li guarda per niente, insomma è libero di fare quello che vuole. È un archivio e negli archivi ci si va se si vuole. Ho dato la piena libertà al lettore di decidere se era importante in quel momento approfondire oppure no. È un'opportunità che c'è, certo, è un quadro storico che emerge con un approfondimento, una precisazione di una serie di episodi e di eventi che fanno parte della narrazione, però ritengo che... Come la foto di copertina? Sì, la foto di copertina l'ho scelta, sono molto contento di averla scelta io questa foto e di aver anche sostenuto il fatto che fosse utilizzata come copertina, perché rappresenta secondo me in modo abbastanza fedele il contenuto del racconto. È una foto di Tano D'Amico, grandissimo fotografo, ora ultra ottantenne, lui è palermitano, vive ora a Roma, ci ha dato la liberatoria molto, molto volentieri, gliel'abbiamo anche voluta pagare, anche se non avrebbe voluto, no, abbiamo voluto pagarla perché ci sembrava anche una forma di omaggio e di rispetto. E Tano D'Amico è stato un grandissimo sguardo sui movimenti, sulle persone, sui singoli individui che costituivano le folle di quel periodo. Lui ha avuto la capacità di entrare con uno sguardo molto profondo nelle espressioni, nei momenti particolari di eventi che per lo più erano collettivi, assemblee, manifestazioni, comizi, eccetera. Ecco, Tano D'Amico, tanto è vero che noi questa foto di copertina l'abbiamo voluta riprodurre anche in fondo, ingrandita, in modo che si potesse proprio godere e cogliere meglio. Ed è una foto che reca qui in basso, di suo pugno, 1977, festa della primavera, Montalto di Castro, Tano D'Amico, con la sua firma. Quindi è anche un omaggio che facciamo a questo grande artista, insomma, grande fotografo, grande artista. Come vogliamo procedere? Come vuoi. Allora, tre brani, lettura di brani con sottofondo musicale, da cui io cercherò di porre alcune domande, non molte, e dopodiché lasciamo lo spazio. Il sesso sarebbe stato per entrambi la prima volta. Sai, mi chiedevo se questo è il momento giusto per... Beh, sì, insomma, per stare insieme davvero io e te, completamente. Amelia era seduta in braccio a me sulla poltrona della sua stanza e nel dirlo aveva nascosto la sua bella faccia sul mio collo. Forse perché, sull'audacia di quella proposta, aveva poi prevalso la timidezza. Secondo me sì, cioè voglio dire che non c'è problema se siamo in sintonia. Avevo risposto come un idiota, cercando di governare quel senso di oppressione ai polmoni, insieme a un'erezione che cominciava a premere fastidiosamente nei jeans, verso l'alto. Anche secondo me, però, ho un po' paura, continuò Amelia, che si era accorta del cambiamento, anche perché lo sentiva spingere sulla coscia. Alzò lo sguardo per incontrare il mio e aggiunse sorridendo, con gli occhi lucidi. Comunque, sto prendendo la pillola già da una settimana, lo sai? Oh, bene, almeno su questo non c'è da preoccuparsi, continuai sempre più infelicemente, colto alla sprovvista perché non avevo pensato nemmeno lontanamente ai preservativi. Un copione appena decente avrebbe previsto una qualsiasi iniziativa da parte mia, invece restavo immobile, bloccato su quella poltrona dal peso di Amelia seduta sopra di me e dal macigno delle mie insicurezze, le mie dita intrecciate alle sue sudavano fredde come rane. Avevo un'erezione in corso e, come se non bastasse, Guccini cantava struggente in sottofondo. E pensavo, dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma quale sia e che senso abbia, chi lo sa? Mi trovai di fronte a un bivio. Da una parte il naufragio nella malinconia più assoluta, così nobile, rassicurante, soprattutto da me ben conosciuta e facile da gestire, però anche così lontana da quella spinta dal basso ventre che sentivo vitale, selvatica, molto più allegra e soprattutto rock and roll, ma anche più misteriosa e rischiosa, difficile da prevedere. Insomma, sentivo un grande conflitto, uno di quei contenziosi impossibili da dirimere, che possono durare interi minuti, ore, giorni, settimane. E pensai, ma non c'è un limite di tempo in queste cose, questo è il punto, non c'è un limite. E basta, cazzo, a tutto c'è un limite, sbottò Amelia, forse si riferiva all'atmosfera creata dal brano musicale in sottofondo. Ma a me arrivò come uno schiaffo. E se invece di tagliarci le vene ci facessimo un buon bicer de vin? Lo hanno appena portato i miei dalla Toscana. Ottima idea, questa è telepatia, le risposi con nuovo slancio, grato per avermi tolto da un impasse che stava diventando tragicomica. Così andammo in cucina e stappammo una bottiglia. La fragranza di quel vino riempì i nostri bicchieri fino all'orlo e nel giro di pochi minuti eravamo già un po' brilli. Allora cominciamo a giocare, facendo una gara di recitazione improvvisata per tutta la casa. Ci ritrovammo a ridere, gridare, piangere, per poi sentirci più vicini, in un abbraccio che ci invitò al bacio. Fu intenso, continuò anche mentre ci spogliavamo a vicenda, lentamente, un po' alla volta. Poi ci infilammo nel letto di Amelia. Eravamo proprio felici, senza ombre né dubbi, come il sole allo zenith, anche se era mezzanotte. Ci addormentammo abbracciati, uno dentro l'altra, lei sopra di me, così vicini da essere un solo respiro, un solo corpo, nel quale si era mescolato anche un po' del nostro sangue. Fu come un'inedita sensazione di fratellanza, quella che sentì sulla mia pelle e nel cuore. Amore, amore mio. Allora, da questo passiamo dall'amore romantico, sognato, le sensazioni, le emozioni, i pensieri, le varie immagini, i film che ci si fa, allo scarico lunare, come diresti tu, e risalire il pendolo. Tutto questo, la generazione, il movimento, quale libertà e quale amore? Si diceva prima del movimento risalire il pendolo. In realtà, se voi immaginate un pendolo che oscilla da un'estremità all'altra, al fondo al pendolo, nella sua estremità inferiore, potete provare a vedere che succede quando si risale il pendolo. Questa oscillazione non è più così estremizzata, no? Man mano che si va verso il fulcro del pendolo, questa oscillazione si riduce fino ad arrivare al fulcro, dove esiste un momento fermo, stabile, quindi di centralità. Risalire il pendolo indica il movimento che si compie verso il fulcro, quindi non è né il momento dell'oscillazione estrema né il momento di stabilità illusoria, agognata, desiderata. Vediamo poi quanto dura questo momento di stabilità. Noi in psicosintesi parliamo di sintesi parziali, sì, ben consapevoli che ogni risalita del pendolo presuppone poi un momento in cui nella sintesi si incamera, si assorbe, si fa tesoro, si integra. L'integrazione avviene prima della sintesi, ma ecco, nella sintesi noi non ci illudiamo di poter rimanere per sempre, no? su quel punto conquistato, acquisito, perché subito un altro pendolo ci si ripropone, la vita ce ne propone in continuazione, no? Di occasioni, di esperienze, di esercizio, come diceva Sagioli, no? Sì. Quindi risalire il pendolo è un movimento, e anche qui il pendolo è tra le paure e questo desiderio, tra il voler scoprire, no? questo mistero della sessualità, di questo incontro così profondo con l'altro, e dall'altra parte le insicurezze che pesano come macigni, le mani che sudano fredde come rane, e l'inadeguatezza. Ecco, qui chiaramente il racconto è fatto dal protagonista, da Giovanni Cohen, che non è tanto più grande di quell'epoca, potrebbe essere un racconto fatto intorno ai 20-25 anni, neanche dal protagonista adulto. Altri sono i momenti in cui c'è la riflessione adulta del protagonista, però ecco, in quel movimento c'era anche una schietta, sincera, onesta, ingenua ricerca di verità sia su se stessi che sugli altri, soprattutto nei rapporti interpersonali. Le relazioni erano un laboratorio continuo, vis-à-vis, occhi negli occhi, odore a odore, c'era una presenza corporea incarnata molto presente, collettivamente anche a livello interpersonale, quindi anche a io-tu. Che questo è un altro dei figli di tutto. È un altro dei figli. Romanzo. Questo oscillare tra un tu e un mio tu, noi anche. Ci legge un secondo brano? Come? Leggiamo un secondo brano? Cosa dici? Sì, questo secondo brano è un'altra degli episodi, degli eventi che era molto frequente vivere, sperimentare in quegli anni. Io continuerei con i Pink Floyd, perché ok, sei in onda, puoi parlare. Grazie, volevo informarvi che siamo riusciti a ottenere la mensa per i nostri figli a un prezzo politico, dopo 2 mesi di lotta insieme agli insegnanti e al personale della scuola. Se Gennaro mi sente, è meglio che torni a casa subito con i bambini, se no chiamo la polizia. L'ultimo film di Bertolucci mi sembra davvero un ritorno al neorealismo postmoderno, ma per quanti anni ancora dovremo aspettare la rinascita del cinema militante italiano? Certo, c'ero anch'io al concerto di Lou Reed, ma le cose sono andate molto diversamente. A proposito dell'ultimo intervento, mi è sembrata più una provocazione fine a se stessa che una realtà reale, una volontà politica di contribuire al dibattito fra i compagni. Ma che cazzo di musica mettete? Oh, mi sembrate Radio Milano International, che cazzo? Lo studente fascista, vittima di un agguato sotto casa, ha riportato un gravissimo trauma cranico e adesso è in coma all'ospedale. È confermato. Il compagno che è rimasto ucciso nello scontro con i fascisti era uno studente lavoratore che tornava all'università statale dopo una manifestazione per il diritto alla casa. Sono qui, davanti all'Asso Lombarda, c'è un gruppo che si è staccato dal corteo, ora sta cercando di rompere i vetri blindati, sentite? Ci sono spari, colpi di arma da fuoco, sentite? Ora mi sono messo giù a terra, fra 2 auto, per registrare. Qui volano proiettili, ma non si capisce chi sta sparando. I redattori inviati alla manifestazione devono chiamare in radio subito per dare la loro posizione e registrare per il notiziario delle 19. Stasera, dalle 20:30 in poi, intervista a John Cage con microfono aperto fino a mezzanotte. E con questo brano dei Traffic, intitolato John Barleycorn Must Die, vi auguriamo una buona notte. C'ero anch'io in quel gruppo di ragazzi e ragazze che autogestiva lo spazio giovani della prima radio libera di movimento a Milano. A quell'epoca si stava superando il monopolio Rai dell'informazione. La realtà poteva essere variamente percepita e narrata, le vite private di migliaia di persone diventavano pubbliche, creavano con pensieri, immagini, emozioni ed esperienze condivise un'altra realtà, un altro mondo possibile qui e ora, al di là dei dogmi ideologici e del settarismo dei gruppi extraparlamentari ormai in declino. Certo, erano molti gli errori, gli eccessi, gli abbagli che provenivano da quel flusso di bisogni e di aspirazioni, di idee e di proposte su come cambiare la realtà. Ma il senso di libertà e di piena responsabilità sulle conseguenze delle proprie opinioni e azioni rendeva quel grande movimento collettivo una formidabile occasione di crescita per ogni singolo individuo che vi partecipava. C'era la sensazione diffusa che la ricerca della felicità fosse sempre più una questione del presente, non più rinviabile né delegabile al potere costituito o a un partito verticistico o a una prossima vita, e che riguardasse tutti e ognuno come condizione irrinunciabile per la sua autenticazione di fronte alla storia. Forse quel movimento rappresentava la possibilità di una fase di evoluzione umana di grandi proporzioni, una sorta di età dell'oro che si ripresentava a quel punto del ciclo storico come potenzialità realizzabile dalla forza di un desiderio collettivo, di una volontà senza precedenti. Come poi gli anni di piombo, definizione giornalistica, riduttiva e liquidatoria di quel periodo, abbiano messo in ombra la sognata e desiderata età dell'oro, e ormai storia conosciuta e per lo più condivisa. Di quella ricerca della felicità che hai vissuto, cosa traghetti ad oggi e che cosa auguri alle tue discendenti? Di quella ricerca della felicità resta la ricerca della felicità, resta il continuare a ricercare comunque elementi nuovi, motivi di stupore, di meraviglia, riconoscimento anche del proprio limite, del non sapere, la curiosità della ricerca. Questo sicuramente sento che lo devo a quel momento storico anche della mia vita in cui sono stato dentro quel flusso storico e dove la critica del potere, delle cose così com'erano e così come ci erano state presentate e come dovevano continuare ad essere, era al centro di quel movimento, ma il potere non solo degli altri, anche il potere riferito a quello nostro, no? Riferito alle forme del partito, dell'organizzazione, oltre che dello Stato. Quel movimento è stato una rottura con l'ideologia, con il comunismo così come era stato conosciuto fino a quel momento, ed è stato un grande movimento libertario, stiamo parlando di questo, e questo poi ha determinato anche uno scontro con chi invece continuava a riproporre quel tipo di ideologia e quel tipo di forma partito, di forma organizzativa, di concetto dello Stato. L'idea che il sistema dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo fosse l'unico sistema possibile fu messo in discussione in modo radicale da quel movimento, non per sostituirlo con un altro potere inteso come forma realizzata, quello che si chiamava materialismo scientifico, è stato il prevalere del materialismo scientifico sulla visione marxista della visione dell'uomo, del mondo, molto più filosofica, molto più aperta a essere sviluppata. Il prevalere del materialismo scientifico ha portato poi alle aberrazioni a cui abbiamo assistito nella storia. e in parte anche nel nostro paese, anche se è sempre stato presentato un po' no? Un comunismo diverso, un partito comunista diverso da quelli europei, in parte è stato anche così, però una riflessione profonda su quella matrice credo che non sia stata mai portata alle estreme conseguenze e abbia continuato a rappresentare l'ombra, per usare il termine lombiano, di quella tradizione. Beh, quel movimento con quell'ombra ci ha fatto i conti e ha deciso di superarla e ha deciso di tentare altre strade. Infatti anche in alcune altre parti del libro c'è questo risalire il pendolo tra impegno, ad esempio, e anche il disimpegno che può essere scolastico oppure nei confronti della famiglia, e poi invece un radicale stare qui e ora in un impegno positivo, in un momento più anche ricercato e molto autentico. E, quindi privato e pubblico. Anche questo è un'oscillazione, è un risalire. E quindi dove spostare non soltanto la ribellione e il conflitto, ma altri valori in questa continua oscillazione tra pubblico e privato. Quali altri elementi possono intervenire o sono intervenuti, oltre a quelli che hai già enunciato? Cioè, ci sono anche da un punto di vista proprio la libertà, questo grande, alto, amplissimo valore della libertà. In quali aspetti molteplici si è espressa? Beh, la libertà ha dei costi, non è mica, solo. Era lì che volevo parlare. No, la libertà ha dei costi, ha i costi di fare delle scelte, di assumersi delle responsabilità, di uscire da un'appartenenza quando questa diventa costrizione e obbligo. La libera appartenenza è un'altra cosa. Questa ha dei costi. In questa storia è ricorrente questa ambivalenza, no? Questo cercare la libertà ma avere anche un gran bisogno di rassicurazione, di appartenenza e il volersi sentire tenuti, compresi, riconosciuti da qualcuno che ti accetta per come sei, che non ti mette condizioni. È il famoso, questa aspirazione all'amore condizionato, al riconoscimento, no? Da parte dell'altro, come qualcuno che ti può dire sì, tu sei ok, vai bene così come sei. Anche qui c'è un'ambivalenza, ma c'è anche il fatto di smettere di chiedersi, leninisticamente parlando, che fare, e cominciare a chiedersi chi essere, perché già allora ci si poneva questo tipo di dilemma, c'era questo tipo di conflitto tra chi continuava a chiedersi che fare e chi cominciava a chiedersi ma aspetta, ma prima ce lo vogliamo chiedere chi essere, perché se non abbiamo capito chi vogliamo essere, che facciamo? Che facciamo? Che andiamo facendo? No? In forme rozze, primitive, in forme anche idealistiche, anche utopistiche, ma ben vengano, cioè ben venga l'utopia, soprattutto oggi, ben venga il sogno, no? Qui, come il ceto politico di allora che riproponeva forme vecchie di organizzazione vecchia rispetto a bisogni, a tendenze e aspirazioni nuove, anche oggi la perdita del sogno, della vision, dell'orizzonte da conquistare da parte del ceto politico attuale, qualsiasi ceto politico, governo, opposizione, non fa differenza, è il segno della crisi profonda, no? Anche dello spirito dell'epoca che stiamo vivendo. E in questo c'è una domanda invece che credo molto interessante da parte delle nuove generazioni, parlo dei ventenni, quindicenni, ventenni, molto più dei quarantenni, diciamo, no, di oggi, che vogliono sapere chi diavolo erano i loro genitori, chi sono gli adulti con cui hanno a che fare, ma chi sono non vuol dire che cosa sanno, chi sono, che storia hanno, cosa testimoniano. Io ho riscontrato anche diverse volte, forse anche te, nei gruppi classe, nei ragazzi di quell'età lì, questa fame, questa sete proprio di ma tu chi sei? Ma che adulto sei? Ma qual è la tua storia? Ma tu che facevi negli anni in cui c'era quella musica strepitosa? Perché poi questi ascoltano Deep Purple, Pink Floyd, Rolling Stones, cioè hanno un bagaglio culturale per cui ci potrebbero veramente insegnare qualcosa, perché poi su Google si trova tutto, insomma fanno le loro ricerche, vanno a vedere, noi magari ci siamo dimenticati nel frattempo, no? Quelle cose, è un paradosso, no? Ma è così, ce le ricordano loro e ci chiedono anche, ma tu chi sei? Ecco perché i paragoni sarebbe meglio accantonarli e cogliere le opportunità invece, no? Si sente spesso dire, ah, noi sì che eravamo ganzi, eravamo bravi, no? Leggevamo tanto, si diceva anche oggi a tavola. Pensate, negli anni 70 gli adolescenti che leggevano libri di saggistica, di narrativa, di qualsiasi genere, erano il 70% degli adolescenti. Oggi sono il 17%. Sono passati decenni, no? Ovviamente. E ci sono degli studi già sugli effetti del web, dei vari supporti tecnologici, smartphone, eccetera, su delle modificazioni a livello delle aree cerebrali che sono già modificazioni che cambiano proprio l'antropologia di tutti noi, mica solo dei ragazzi e dei giovani. Questa percezione a volo d'ape, un po' su questo fiore, un po' sull'altro, un po' sull'altro, questo andare in modo a saltelli, qua e là, a succhiare un po' qui e un po' là, mentre si scorre col dito Facebook, Google, eccetera, eccetera, disabitua il nostro cervello a due cose fondamentali, alla comprensione profonda e alla sintesi. E senza comprensione non può esserci la sintesi. Ma senza la sintesi non ci possono essere nuove idee, non ci può essere immaginazione, non ci può essere qualcosa di veramente inedito, nuovo. Ecco perché lo ribadisce Yahya Caputo nella prefazione bellissima che mi ha onorato, di cui mi ha onorato in questo libro. Yahya Caputo è una saggista, è stata una giornalista di varie testate, insomma, ricordo Il Mattino di Napoli, Manifesto, Repubblica, eccetera, oltre a essere stata la mia editor, mi ha guidato in questo mio primo esperimento, diciamo, letterario, e mi ha insegnato molto sulla necessità di fare delle scelte quando si scrive. Questo era un libro che poteva essere di 500 pagine, sono diventate 360, perché tutte le altre, con una sofferenza atroce, ho dovuto abbandonarle e accettare che non erano poi così importanti rispetto alle altre. È un bel lavoro sugli attaccamenti anche, scrivere un libro, perché devi scegliere che cosa mettere, non puoi mettere tutto. E lei ribadisce nella prefazione una cosa su cui sono molto d'accordo, ed è forse un altro motivo per cui ho avuto così voglia, anche l'esigenza di scrivere questo libro. È che senza memoria non lo potremmo immaginare un futuro. La memoria è fondamentale, la comprensione, la sintesi, la rielaborazione. Attenzione, io parlo di memoria, la memoria è una facoltà del presente, è la scelta nel presente sul tipo di sguardo che vogliamo mettere sul passato, perché il passato è passato, c'è poco da fare, è successo, è accaduto. Viviamo un tempo lineare, il passato sta alle nostre spalle, ma la memoria no, la memoria è che tipo di sguardo vogliamo mettere oggi, come vogliamo guardare quel passato. E questa è una grandissima libertà, trovo. Possiamo decidere noi che memoria vogliamo nutrire, vogliamo allevare dentro di noi. Ma qualunque cosa poi decidiamo di essere, chi decidiamo di essere o qualunque cosa decidiamo di fare, è bene non dimenticare, perché senza la memoria il futuro sarà molto difficile immaginarlo. Ecco, questa è la riflessione sulle altre cose che forse porto con me, per cui sono grato ai protagonisti, a Giovanni Cohen e a tutti gli altri, che sono una banda, insomma, di soggetti simpatici, particolari. Scusa, non posso, io non se non è nella logica, lo faccio dopo, però io volevo dirti questo. Aspetta un attimo, un microfono, sì. Vengo dal 68, ma anche... Sì, ah, che bello. Ecco, quelli che bello. Di cui parli adesso sono i nostri nipoti. Sì, certo. Cioè, ecco, io vorrei che ci parlassi un po' dei nostri figli. Come sono figli? No, ok, eravamo noi giovani, forse sono adolescenti. Adesso ci sono gli adolescenti, ma quello che a me rimane oscuro, quindi ho bisogno, cioè, chiedo, ecco, come pensi, la tua analisi, il tuo lavoro, i nostri figli, cioè i figli del 68, no? Quelli che avevano quell'idea, perché mi sembra che questo sia un aspetto molto interessante e ancora forse non abbastanza approfondito, perché cioè è oscuro. Quindi quelli che hanno adesso quanti anni? Possono avere 40 anni. Ecco, i quarantenni che dicevo prima. Cioè, capito, sì. Non sono i giovani, cioè, in mezzo c'è una generazione. Beh, io premetto che nel 68, io avevo 11 anni. Quindi non potevo avere figli ancora. Io avevo 11 anni. Nel 68 avevo 11 anni. Come ti chiami, scusa? Celestina. Come ti chiami? Celestina. Celestina, ecco, io nel 68 avevo 11 anni. Io sono del 59, sono nato nel 59. Sono un no, è una premessa doverosa per 9 anni, scusa, 9 anni. Ah no, no, scusa, 9 anni, non pensavo al protagonista, ha avuto un momento di sovrapposizione. Allora, ecco, ancora meglio, avevo 9 anni nel 68, infatti il protagonista a 12 anni passa in tram per le strade nebbiose di Milano e spera di vedere almeno la coda del mitico 68, variopinto di bandiere, di striscioni, eccetera. Invece l'unica cosa che riesce a vedere sono i colori nella nebbia di auto, moto, furgoni, insegne, dei negozi, eccetera. Ecco, io voglio dire, sono della generazione del 77, nel senso che avevo 17, 18, poi insomma 77 ha avuto anche poi un seguito anche degli anni successivi. Posso dirti che rapporto ho con i quarantenni di adesso? Ce ne sono alcuni molto interessati, molto curiosi su tutto ciò che riguarda la spiritualità, la crescita personale, ce ne sono altri che sono totalmente disinteressati a questo, che sono molto focalizzati sul lavoro inteso come acquisizione di successo, di realizzazione, di acquisizione appunto di poteri, di riconoscimenti, eccetera. Vivono abbastanza male questa situazione, perché neanche da dire che sono realizzati, io non ho questa percezione, però sostanzialmente è vero che ogni generalizzazione ha un limite, non si può generalizzare, bisognerebbe chiederlo a loro. Bisognerebbe, ecco, una cosa che ho trovato carente in chi, in molte situazioni in cui mi sono confrontato con chi era più grande di me, quindi quelli che avevano fatto il 68, è una grossa difficoltà all'ascolto, ad ascoltare. Forti forse di quell'esperienza che li aveva collocati anche loro sulle prime scene, la contestazione, quando si nasce, si cresce in una generazione di contestatori, è per definizione difficile l'ascolto, perché il contestatore non è fatto per ascoltare, è fatto per dire, per criticare, per contestare, eccetera. Quindi è un po' un'impronta collettiva che è rimasta quella. E ancora oggi, quando parlo con chi ha fatto il 68, ritiene che dopo il 68 non c'è stato più niente. Cioè, questo discorso che io faccio di apertura a un decennio, mi viene da dire, ma come, lo statuto dei lavoratori, il divorzio, la legge per superare l'aborto clandestino, tutto quello che ha rappresentato il decennio 70, questo non ha significato? Ritengo che quello abbia consolidato e trasformato la contestazione del 68 in un movimento di alternativa radicale, che è un'altra cosa da contestare. Quando tu ti proponi come alternativa radicale, devi ascoltare le persone con cui vuoi costruire l'alternativa, ti devi ascoltare anche al tuo interno, ti devi mettere in un atteggiamento più analitico, più riflessivo. Forse è stato più facile per questa attitudine. Io devo anche ringraziare le compagne più grandi di me a quell'epoca, che hanno fatto il 68, che mi hanno allevato, parlo delle femministe soprattutto, che mi hanno, dico allevato tra virgolette, perché poi nella scuola, nelle varie circostanze, c'erano queste ragazze molto più grandi, io ero un pischello, ed erano teneramente, diciamo, comprensive, e mi spiegavano le cose, mi davano retta, eccetera, eccetera. Questo sì, parlo delle femministe, però non parlo, ma quello è un mondo particolare, è stato un mondo particolare, l'autocoscienza. Era tipica, era un termine, una pratica che è stata fondata, coniata dai vari circoli collettivi femministi, poi dopo ha preso altre strade rispetto a quelle che oggi noi intendiamo per autocoscienza, no? È stata in parte ideologizzata, è stata estremizzata, è diventata una forma di sessismo addirittura, però al di là di questo, le intenzioni iniziali, la spinta iniziale era una spinta estremamente evolutiva, no? Rimetteva al centro la relazione, il rapporto fra le persone, in qualche modo anche quello. Questo è quello che posso dire sulle generazioni, però prendilo con beneficio di inventario, perché non sono un esperto in quarantenni e perché soprattutto non ho fatto un'analisi, diciamo, sugli effetti educativi o di relazione tra, ecco, i genitori del 68 e figli. Sarebbe interessante approfondirlo, ma ascoltando magari qualche genitore del 68 che ha fatto, ci sarà sicuramente, che ha fatto una riflessione su questo, e soprattutto i figli, ecco, i quarantenni disposti a dire qualcosa a proposito di questo argomento. Sarebbe interessante ascoltarli, insomma, chi vuole. Non so se... Magari ce n'è qualcuno. Magari ce n'è qualcuno in sala, probabilmente. Allora, avanti, forza, coraggio. Se qualcuno vuole testimoniare, tanto questa è... Mi sento chiamato in causa. È testimonianza. Non ho detto nome e cognome. Bravo. Ho 20 anni nel 68, 21 anni. Caspita. E quindi mi sento chiamato in causa. E mi sento chiamato in causa come padre anche di un figlio che adesso ha 30 anni e... 33. Complimenti per la precisione nel computo dell'età, eccetera, perché non è manca, nemmeno ci sfugge nulla. È molto utile questo, perché certo. Tanto si perdono questi, fortunatamente forse anche. Oggi ho 71 anni, giusto? Sì, oggi ho 71 anni. E ecco, mi ha colpito prima questa parte che mi hai ricordato un titolo di una canzone che avevo perso, che era dei Traffic, e era John Malcolm Must Die, che mi è venuta in mente, è molto bella, era molto... Vabbè, quella è una questione più di pancia. Invece nel ragionamento mi è venuto in mente questo fatto della mancanza di utopia dei giovani di oggi, che credo sia un grossissimo problema, e dall'altra la curiosità nel sapere come eravamo, no? che ho trovato anche mio figlio, molto spesso discutiamo su questo, come eravamo. Ma io di mio padre, detto chiaramente, non mi interessava assolutamente come era lui, perché ero troppo occupato a capire come dovevo essere. Allora mi chiedo anche se i giovani che oggi vogliono sapere come eravamo non abbiano bisogno di un modello che non riescono a trovare da nessuna parte. Non trovando nessun tipo di modello, guardano, e dove guardano? Guardano indietro, perché avanti vedono un buio totale. Guardano indietro, ma è giusto questo punto di domanda. Spesso con mio figlio mi sono ritrovato a sminuire le cose che lui pensava noi potessimo fare nel 68, perché anche i brani che hai letto rispecchiano esattamente i sentimenti, le paure, la sessualità come grande mostro da una parte e dall'altra come grande libertà, no? Certo. I grandi concerti all'aperto, la nudità messa in piazza, eccetera, ma che paura c'è da dietro quello, che angoscia, ecco, e quante persone abbiamo perso per strada che in quelle angosce, a quelle angosce, a quelle paure ha risposto con che cosa? Con le droghe, con il perdersi, eccetera, eccetera. Allora, ancora una volta io mi chiedo, sì, da una parte è stata una generazione che ha dato una grande spinta, dall'altra però dopo questa spinta cosa è successo? È vero, non dobbiamo dimenticare che per gli anni 70, per gli anni 80 poi abbiamo cominciato a scendere e oggi siamo qui. Io non voglio dare altro. Ecco. E quindi sono punti di domanda che io pongo e lascio lì. Certo. Grazie a te, no, sono domande molto interessanti, raccogliamone altre, dai, così facciamo una riflessione. C'era, guarda, qui davanti lei vuole dire una cosa. Mara. No, ciao Mara. Io nel 68 avevo 8 anni, quindi l'ho vissuto da piccola, però ho dei fratelli più grandi, quindi vedo male sentivo i discorsi. Il mio fratello più grande aveva iniziato a lavorare, quindi si trovava dalla parte dei crumieri in fabbrica. Quindi questa cosa che veniva così si sentiva, i telegiornali, eccetera, eccetera, si vedevano i giovani studenti che andavano a criticare i crumieri che stavano, io la vedevo dall'altra parte della barricata, certo. Sapevo cosa voleva dire che lui dovesse andare a lavorare, perché grazie a Dio aveva trovato un posto in fabbrica. E quindi in qualche modo, anche se il discorso della contestazione mi sembrava più che legittimo, io mi sarei buttata lì, però vedevo l'altra faccia della medaglia e non lo trovavo giusto, perché io conoscevo mio fratello e conoscevo anche tanti suoi coetanei e li trovavo persone assolutamente degne di rispetto. E c'è da dire sulla contestazione che loro avevano a rompere degli schemi, avevano da protestare, e quindi da questo punto di vista era facile, perché se una cosa non ti piace e dai la stura, è facile criticare tutto. Da studentessa poi alle superiori, quindi a 16-17 anni, io sono entrata in prima superiore, che quelli della quinta avevano fatto il 68, avevano avuto comunicazione con quelli del 68 e stavano andando via. E ancora c'erano queste assemblee fumose, fumavano come i turchi, dove tu ti trovavi, anche se non volevi, perché l'assemblea era improvvisa, a un certo punto tutti fuori dalle aule, in corridoio, in atrio, e si parlava, e c'erano questi che, io non me lo ricordo, dicevo, che francamente tanto senso non aveva, secondo me, e comunque veniva lì e dice, di la tua, ma di la tua, sono appena arrivata, ma non so neanche cosa vuoi che ti dica. Però organizzavano i cortei, bisognava andare tutti, se poco a poco tu osavi chiedere perché, già ti davano del fascista. E per me era difficile da capire il fatto che loro proponessero la protesta ma non avessero alternative. Cioè per me era normale protestare, una cosa non ti va bene, però dimmi che cosa vuoi fare invece. Perché altrimenti, quindi mi sono beccata dalla fascista per anni, poi avevo il diritto di partecipare ai cortei da casa, perché avrei avuto problemi. Al di là di questo, però, mi viene da dire, i ragazzi di oggi sentono un malessere. Io ho due figli in età adolescenziale poco dopo, sentono il malessere, io li vedo disorientati, non sanno a chi credere, non sanno a chi appellarsi, e anche loro chiedono, ma voi come eravate? Perché effettivamente non hanno nessun tipo di modello, però hanno una situazione abbastanza agiata da non dargli la spinta per protestare. Secondo me il vero problema dei ragazzi di oggi è questo, non che non stiano male, perché lo sentono anche loro che c'è qualcosa di stonato, però tutto sommato la vita è abbastanza comoda, hanno i loro social, eccetera, un sacco di amici con cui intrattenersi, e quindi questa spinta a rompere tutto per avere qualcosa di meglio non riescono ad avere. Grazie, sì. Beh, il tema, ritorna a questo tema, no? Del rivolgersi indietro, un po' anche quello che dicevi te prima, no? Cioè rivolgersi indietro perché i riferimenti, i modelli, i miti, cioè le figure anche che possono essere ispiranti, no? Cioè l'ispirazione, i modelli positivi, intende, i modelli di coraggio, di giustizia, di egualitarismo, eccetera, eccetera, dove sono? Cioè, qui andiamo a recuperare delle icone ottocentesche, novecentesche, ma siamo in un presente che è cambiato completamente. Allora, è giusto, è utile rivolgersi indietro? Che io ci vedo anche una grossa opportunità in questo chiedersi, ma tu, babbo, vabbè, l'ho detto alla Toscana, tu, papà, tu, mamma, sì, anche, ma non sono toscano, io sono milanese, diciamo, di adozione, e il romanzo si svolge a Milano, infatti. Chi sei? Perché il bisogno della testimonianza è proprio il bisogno di poter marcare anche una distinzione, una differenza. Io ero costretto a sapere che cosa aveva fatto mio padre. Ero costretto perché mio padre ha cercato in tutti i modi di condizionarmi e di farmi diventare come voleva lui. Quindi lo sapevo, io sapevo che lavoro faceva, qual era la sua occupazione. Ma è un altro discorso. Io sono dovuto andare a sbattere contro questo argine, diciamo, non cementificato, è un argine naturale. Infatti si è dimostrato non cementificato, perché poi ha ceduto, perché come spesso succedeva ha ceduto perché era rivolto al passato, perché era nella nostalgia, non era riuscito a ricollocarsi e riorientarsi nei tempi, a quei tempi moderni, no? Contemporanei. Quindi io lo sapevo, anche se mi sarei interessato di altre cose. Adesso questi argini contro cui andare a sbattere, parliamoci chiaro, non ci sono. C'è stata da un certo momento in poi, anche grazie a questa maggiore coscienza dell'importanza pedagogica del rapporto coi figli, di mettere al centro i bisogni, le esigenze del bambino, l'attenzione da parte degli adulti, c'è stata tutta una serie di aspetti, diciamo, di progresso, di evoluzione, che questo tema del conflitto però lo hanno in qualche modo disinnescato. Una delle preoccupazioni più grosse degli adolescenti che incontro io nel mio lavoro, ma anche perché sono semplicemente amici di mia figlia, non è tanto quella della rabbia e del voler rompere con i genitori o con le figure autoritarie, eccetera, ma è la preoccupazione di non creargli sofferenza ai genitori. I genitori vengono percepiti come estremamente fragili, si ha paura di abbandonarli i genitori. E poi che cosa fa? Povero mio babbo, povera mia mamma, piccinina. Io sento parlare in questi termini qui. Hanno dato tutto, mi hanno dato tutto, e io adesso non posso andarmene via e lasciarli. Perché se poi dall'altra parte c'è il lavoro sui sensi di colpa, c'è il lavoro a trattenere, e il gioco è fatto. Cioè, non si esce più, non si rischia più, non si sperimenta più. Rischiare nel senso positivo, non si vive più il conflitto, ma in senso positivo. Il conflitto è un'energia fondamentale nella crescita di una persona, è un elemento di valore fondamentale il conflitto. Ma nella terapia, quando da un complesso, che è la ripetizione rigida di schemi che sono gabbie psichiche in cui una persona si ritrova completamente ingessata, statica, ferma, quando da quello si entra in un'area del conflitto e si cominciano a muovere energie e si assiste alla rabbia, al dolore, anche ai sensi di colpa, a tutto ciò che però sposta sul terreno del conflitto. Ma io, insieme alle persone con cui lavoro, stappo una bottiglia di spumante e brindiamo. Finalmente entriamo in un'area dove l'energia si muove, dove c'è la possibilità di nominare, di dare un nome alle cose, perché prima il nome alle cose non si dà, non si può dare, è tutto statico, è tutto fermo. Come faccio a salvare me stesso se sono totalmente identificato in quella gabbia? Non ho la percezione di un me altro, come potrei essere in un altro modo. Nel conflitto invece c'è questo dire: no, però sì, sono obbligato a fare questo, ho difficoltà di uscire da questo, però vorrei tanto fare quest'altra cosa. Sono due forze che si scontrano. Ecco, allora, i ragazzi che oggi praticano il parkour, sapete cos'è il parkour, no? Sì, sì. la sfida adrenalinica a cose rischiose, saltare da un tetto all'altro. Ogni tanto qualcuno resta dentro una condotta d'aria, o qualcun altro si spacca tutto, muore, cioè si sfracella da qualche parte. Questa ricerca di, ma anche il cutting, anche il segnarsi, il tagliarsi, l'incidere sul proprio confine identitario, un qualcosa a livello più superficiale, a livello più profondo, perché ci sono anche lì vari gradi e livelli di cutting. Che cos'è se non il tentativo appunto adrenalinico, estremo, io dico disperato, di sentirsi in qualche modo, di sentire qualcosa di forte? E da dove nasce questo bisogno di sentire qualcosa di forte, di sentirsi attraverso quella modalità? Attraverso il fatto che la simbolizzazione, il vivere attraverso il dare corpo a dei sogni, simbolizzare, dare un significato, è diventato molto difficile, ci è stato precluso in qualche modo. Perché? Perché è tutto assolutamente disponibile. Vogliamo una risposta? La troviamo. Vogliamo acquistare qualcosa? Lo troviamo a un prezzo stracciato, eBay, Amazon. I libri? Ma i libri per 2 lire li troviamo. I libri che vincono il premio Strega nel giro di 3-4 mesi sono sulle bancarelle dei libri usati. Ci rendiamo conto di che cosa vuol dire? Non esiste più assolutamente un valore e una preziosità anche delle cose. Oppure anche qualcosa che riteniamo assolutamente scadente, ma che fosse anche questo, ma almeno su cui noi esprimiamo un giudizio, magari potremmo ricrederci, magari no, però ecco, è tutto estremamente orizzontalmente, democraticamente uguale, liquidamente uguale. E cioè, dov'è l'argine contro cui vado a sbattere? Qui c'è l'evaporazione, cioè non c'è la forza di un fiume che sbatte contro un argine, lo modifica e continua la sua corsa. Qui c'è l'evaporazione nell'essere assorbiti da un territorio, che è un territorio dove soprattutto mancano segnali del successo del mondo adulto. Quando dico successo, attenzione, io intendo successo autentico, intendo l'autorealizzazione perché si fa una professione interessante, intendo il fatto di avere un ruolo perché si svolge un'attività per il bene comune che poi ci fa sentire in sintonia e interni per una libera appartenenza anche ad altri contesti. Il successo inteso come aspetto relazionale, come passioni, come qualcosa a cui si tiene davvero, che ci sta a cuore per davvero. Ecco, questi sono modi di dire che quando io li giro in termini di domande, ma scusi, ma lei che cos'è che sta a cuore per davvero? Vedo lo smarrimento dall'altra parte, cioè il non sapere quasi che cosa significa. Perché uno potrebbe rispondere, è l'idea che posso cambiare macchina ogni 3 anni perché così almeno approfitto, perché i chilometri sono pochi, allora riesco a venderla bene, perché poi quella la prendo a rate, allora, cioè, su questi ragionamenti qui, per carità, c'è da farsi una cultura. Io sto zitto e imparo. Ma se noi diamo un altro tipo di significato alla realizzazione, a ciò che vale veramente la pena, qui siamo di fronte a un problema che credo sia transgenerazionale, cioè fa parte dei quarantenni, fa parte magari dei ragazzi più giovani, ma questo non riuscire a trovare oggi, l'esempio più banale sono le fake news, ma oggi chi è che può metterci la mano sul fuoco, a parte che questo mai si dovrebbe fare, ma diciamo con buona approssimazione, credere a una notizia o una presa di posizione, una dichiarazione fatta da un politico oggi, ma chi è che può entrare con un atteggiamento di fiducia o di dire realisticamente questa cosa? C'è un'ambivalenza tale, un aspetto di mascheramento, di camaleontismo tale, per cui una cosa che è così alle 5 del pomeriggio, la sera cambia completamente aspetto, a mezzogiorno in pieno con la luce del sole cambia un'altra volta aspetto. Cioè, e questo porta a uno spaesamento e una difficoltà, per cui la risposta sul fatto che i ragazzi si voltino indietro per recuperare attraverso anche la nostra memoria. Qui c'è la storia anche del rapporto tra un figlio maschio e un padre, il protagonista col padre ha un rapporto estremamente conflittuale, però poi ci sono dei momenti in cui ci sono come degli svincoli, delle possibilità di non di uscita da quel conflitto, ma di trasformazione di quel conflitto in qualcosa d'altro. Ecco, l'aspetto della trasformazione del conflitto è importante. È chiaro che il conflitto in sé è quello che è una fase, è un passaggio, ma se poi oltre a quello non si accede a una trasformazione del conflitto, confliggiamo, stiamo nel pendolo e il pendolo non è che va da nessuna parte, oscilla da A a B e a C come fulcro, ma ecco, lì stiamo, non è che di lì ci si muove, si percorre in salita, a trascendere, a discendere, ma restiamo su quella Zeeland, non so se avete presente lo spazio delle variabili, Zeeland, parlando della fisica, dice insomma i pendoli si possono ripetere, possiamo restare lì per sempre e questo ci toglie energia. Ecco, allora la trasgressione, mi piace chiamarlo il deragliamento guidato, perché si può deragliare in modo guidato. Guidati da che? Dal rispetto per noi stessi e dalla consapevolezza dei nostri limiti, di quello che possiamo fare e dello scopo per cui anche facciamo una ricerca e rischiamo. Si deraglia. Qui ci sono un sacco di adolescenti che deragliano in modo più o meno guidato. C'è un range di consapevolezza, c'è chi ha più consapevolezza e chi ce ne ha proprio poca. Troviamo tutto il campionario dei modi di deragliare, però il risultato è che si può anche fare esperienze, rischiare, deragliare in una maniera guidata. Vogliamo mettere nelle città come servizio dell'ASL fisso, stabile, furgoni, laboratori mobili dove possono essere valutate, testate, senza fare prediche, senza sanzioni, senza tradimenti nei confronti dei ragazzi, le sostanze che si vogliono calare e dirgli guarda, in questa pasticca dentro c'è questo, questo e quest'altro e l'effetto che ti dà questo e quest'altro è il seguente, questo effetto e quest'altro. Perché non si fa? Perché questa sarebbe la vera prevenzione, l'informazione. Alla Spezia, in Liguria, ci sono stati, ne parlava Sbrana tra l'altro, ecco, Roberto Sbrana, che è psicologo dell'ASL, parlava di questa esperienza, ha avuto degli ottimi effetti. Perché? C'è una mobilità che può competere con la mobilità dello spaccio. Lo spaccio vince perché è assolutamente mobile, itinerante, cambia forma, è creativo, lo spaccio ha una creatività nel modo di porsi. E noi invece cosa abbiamo? I CERT, che sono luoghi fisici fissi, e poi abbiamo ogni tanto le pattuglie della polizia e dei carabinieri che svolgono un'operazione di tipo repressivo e basta, quando la svolgono. Ok? Allora, la mobilità di queste unità di laboratorio, di analisi chimico-fisiche per queste sostanze, perché non si investe in questo? Perché non ci sono operatori? Si parla del servizio civile, ma perché i ragazzi del servizio civile non stanno fuori dalla discoteca o con una pettorina o anche senza, come ci pare, a distribuire bottigliette d'acqua e a dire, oh, guarda che se non senti sete è una fregatura, è la pasticca che non ti fa sentire sete. Quando sono passate 2 ore, tu hai sudato, non hai bevuto, rischi il coma. 2 o più ore, è vero o no? Diamo questa informazione e con un tono però, che non deve essere un tono di predica o di terrorismo, di informazione. Oh, fatti furbo, guarda che succede questo. Tieni, bevi l'acqua, ricordati di bere l'acqua. Come si potrebbe dire a un amico, come si potrebbe dire a un fratello, a parte che un fratello, se è un fratello minore ti può anche mandare a quel paese, almeno una volta era così, però nel senso, no? Allora, noi perdiamo, cioè come mondo adulto di oggi, perdiamo, siamo inadeguati, credo anche in parte per questi motivi, perché forse non crediamo abbastanza in altri modi di vivere l'adultità, cioè che è un termine orrendo, ma il modo di essere adulto, no? Quindi secondo me che si rivolgano a noi per chiederci non è un fatto negativo, anzi è una sfida, è uno stimolo in più a chiederci, già sì è vero, ma io chi sono oggi? Sì, sono stato anche tutte queste cose, mi costituiscono, fanno parte di me, ma io oggi chi voglio essere nel presente? Che scelta di campo faccio? Non politico, ideologica, ma personale. Chi voglio essere? Ecco, risalire il pendolo è la storia di questa ricerca che poi si conclude nel finale in una immagine del presente, in un rapporto proprio tra un padre e un figlio. Ecco, scusa, e queste ultime cose che suggerisci, no? Ci manca questo, mancano queste indicazioni, queste informazioni, queste, ma io credo che ci sono... Così sentono tutti, così sentono tutti. Secondo te può essere definito prendersi cura? Perché io leggendo il libro ho visto, cioè andavo a cercare continuamente dove brilla il vento. Ah, lo hai letto tutto il libro? Sì. Ah, sì. Interessante. No, e quindi cioè, il titolo mi stuzzicava, che cosa vuol dire? Intanto cosa vuol dire? Era una formula che non conoscevo. Intanto che cosa significa il pendolo? Poi sì, risalirlo, ma intanto di cosa. Mm-hmm. E quindi sono andata a cercarmi gli estremi tra cui il pendolo può oscillare, no? In questo racconto. Ma mi sembrava poi che tra le varie oscillazioni che a un certo punto diventasse l'oscillazione tra io e tu, no? E quindi il rapporto con l'altro che Giovanni Cohen cerca, dice che ha interesse a guardare gli altri, a osservare gli altri. Allora, quando dice al figlio, quindi è il giovane che è diventato grande e che si relaziona col figlio, quindi rivive la sua esperienza in relazione, rivedendo i problemi e le richieste del figlio, e dice io mi prendo, cioè pensa, riflette, immagino, io mi prendo cura di te e quindi mi curo di me. Io sono una che nel 68 aveva 18 anni, ero alla fine del liceo, e ho in mente anch'io quegli anni, no? Ed era vivere da giovani, cioè contestare è comunque chiamarsi fuori dai giochi, e io sono contro, e poi ho vissuto il femminismo e quindi abbiamo debellato a ulteriori ruoli, ulteriori immagini. Io stesso ho detto che a un certo punto mi sono trovata senza casa, no? Senza madre e padre. Facendo questo percorso, ecco, allora prima si parlava del rapporto con i figli, qual è il rapporto, lo sforzo, l'impegno di essere genitore? Intanto è di diventarmi genitore, di assumere le responsabilità, cioè di uscire dalla contestazione, dalla polemica, e invece mi assumo la responsabilità e mi prendo cura del mondo e in questo modo dei figli. E fare lo sforzo di non voler essere amici dei figli. No? Perché a volte è uno sforzo, no? Certo, ci veniva bene. E io, la mia generazione ha proposto ai figli di chiamarci per nome, no? Mio figlio mi ha detto tu sei la mia mamma. Ha ragione. E aveva ragione. E io capivo, è lui che mi sta, ma io Veneto mi ha insegnato a fare. Sì, in questo è molto giusto quello che dici, ma credo che sia anche molto assonante un po' con il tentativo, no, di descrivere una dinamica, una storia, un percorso, no, che fa il protagonista attraverso varie oscillazioni. Il protagonista a un certo punto dice di sentirsi orfano di genitori vivi. Mm-hmm. L'ho capito bene. Questo senso di orfanità si collega in parte, no, anche a quello che dicevi te. Sì, non era solo oggettivo. Sì, sì. No, è un dato di fatto che se non si riconosce, se non si passa attraverso quel tipo di dolore, senso di estraneità e di orfanità, è difficile poi proseguire nel risalire il pendolo. Cioè è la presa di coscienza che è dolorosa, che fa male, ma è l'unico modo per poi sentire una vitalità, no, dentro di sé e dire vabbè, allora ora come me la gioco, cosa faccio? E quello è un primo step. Ma poi, dopo vari altri step che ora non stiamo a descrivere uno per uno, arriva il momento in cui bisogna ridare significato a quel tipo di ruolo. Poter farsi chiamare papà o mamma e sentircisi padre, madre, significa avere in qualche modo pacificato dentro di noi, aver superato dentro di noi quel famoso conflitto che ci ha portato a dire il protagonista a un certo punto lo dice: se io penso a me stesso a 40 o 50 anni, complice di questo sistema disumano, io non, figli non ne voglio fare, non voglio mettere al mondo altri emarginati, sfruttati, eccetera. Sono pensieri che sono stati fatti, questi qui, mica solo da protagonista, erano molto diffusi, ma è stata un'automutilazione dovuta dal fatto che il famoso parricidio, l'uccisione dell'autorità paterna patriarcale, è stato consumato collettivamente nei cortei, nelle piazze, nelle assemblee, nelle manifestazioni e poi anche qualche volta anche tra le mura domestiche, ma soprattutto è stato collettivo. Quella è stata da una parte una grossa spinta, ma è stato anche un limite, perché poi a livello individuale, come coscienza individuale, quello che viene fuori è che si compivano degli atti di vero eroismo e di generosità e di solidarietà fraterna fra persone, senza rendersene conto. C'è un episodio del libro, se l'hai letto, quello alla fine dell'attacchinaggio, sulla frase famosa del Che Guevara: il passo della guerriglia è il passo del compagno più debole, che per me è meravigliosa perché dà proprio un'indicazione, un senso anche all'essere guerriglieri, perché i guerriglieri mica andavano a distribuire rose e confetti, era gente che uccideva, anche gente che stava nella guerriglia, e la guerriglia è questo. Ma il passo del compagno più debole è: nessuno deve essere lasciato indietro. Beh, quel gruppo di ragazzi, durante l'episodio, che non vi sto a descrivere perché sennò chi lo vuole leggere gli anticipo, compie un atto che va esattamente nella direzione di quella frase, e alla fine uno di loro dice: ma che cazzo vorrà dire quella frase del cielo, il passo della guerriglia, il passo del compagno più debole? Che ti verrebbe da dire: ma svegliati, l'hai appena fatto, renditi conto che sei capace di farla questa cosa. Ma era così, la coscienza individuale veniva messa in secondo piano, poi però venivano i drammi. È un gallo? Sì, è vivo. Oh, bene, allora siamo arrivati a quello. La coscienza individuale, poi arrivava l'evento drammatico a livello familiare, il protagonista lo vive, perché poi a livello individuale succedeva che, come avviene appunto anche per il protagonista, che si trova da solo a misurarsi con se stesso. E il discorso finale di poter dire: mi prendo cura di te e così mi curo, è un punto di arrivo e di ripartenza di un lungo percorso, perché il protagonista da adulto che parla con suo figlio, che ha l'età che aveva lui, insomma, in tutta la vicenda che viene raccontata. Vabbè, quanta roba che c'è da dire. mi ero dimenticato. E ce n'è ancora altra. Ci abbiamo anche il regno animale, anche i mammiferi, i nostri fratelli più in basso nella scala tassonomica. Ok. No, ma non può star lì? Sì, guarda lì. Grazie a voi. Allora, se avete la gentilezza, trattandosi di un esordio maturo, quindi rispetto per, l'anzianità, no, allora, se avete la gentilezza e la voglia, l'interesse per leggere una storia che è una testimonianza, quindi nessuna ricetta, nessuna prescrizione, nessuna pedagogia spicciola, ci sono un po' di copie lì a disposizione, chi vuole la può acquistare anche in questa occasione. E poi buona lettura. Grazie per l'attenzione.